continuato a dire no alle rivelazioni di determinati particolari legati alla sua latitante ed è rimasto irremovibile, anche quando i toni sono trascesi al punto che il presidente della Corte d'Assise, Michele Leoni, è stato costretto a sospendere l'udienza del 9 maggio per una decina di minuti. Luigi Ciavardini, 56 anni, il prossimo 29 settembre, condannato per la bomba esplosa alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980 e oggi testimone nel processo che vede come unico imputato il neofascista Gilberto Cavallini, accusato di concorso in strage, si è rifiutato, rischiando un'accusa di testimonianza reticente continuata, di dire chi l'ha ospitato a Villorba di Treviso e chi ha coperto la sua latitanza fornendogli documenti falsi e mezzi di trasporto come un motorino con cui si spostava nella provincia veneta. Sono stato condannato a 30 anni, ha detto l'ex NAR, riconosciuto colpevole del massacro del 1980 con Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Mi sono assunto le mie responsabilità da innocente. A maggior ragione, ha sostenuto, non è sua intenzione inguaiare oggi, non l'ho fatto in passato, persone forse decedute che, per citare le sue testuali parole, gli hanno dimostrato una solidarietà che andava oltre l'adesione a qualsiasi progetto delinquenziale e politico. Eppure Ciavardini, nel corso della sua deposizione, prima della quale si è definito addirittura l'86esima vittima della strage, un nome lo ha fatto. È quello di un certo Calderoni, il medico che lo avrebbe curato a Treviso per la ferita al volto provocata il 28 maggio 1980 da un colpo di rimbalzo in un conflitto a fuoco di fronte al liceo romano Giulio Cesare, in cui venne ucciso l'appuntato di polizia Francesco Evangelista, conosciuto con il soprannome di Serpico. Ma tornando indietro nel tempo, interrogato in passato da Giovanni Falcone per l'omicidio del presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella, Ciavardini disse che un quasi omonimo, Claudio Calderone, gli procurò il documento falso intestato a Flavio Caggiula, che usava a ridosso della strage. Chi sia questo misterioso procacciatore di documenti contraffatti non si è mai saputo, ma è lo stesso che, sempre secondo la deposizione a Falcone, lo accompagnò a Milano dopo i fatti di Giulio Cesare, dove arrivò in treno nonostante la latitanza e nonostante l'evidente sfregio al volto. Perché tacere oggi un nome che aveva fatto 30 anni fa? Interessante, poi, una deposizione che ha preceduto l'ingresso in aula di Ciavardini e che ha trovato poco spazio sulla stampa. È quella di Walter Sorti, l'ex terrorista nero che, arrestato nel settembre 1982, prese la via della collaborazione. Tanti particolari messi a verbale nella prima metà degli anni 80, oggi Sorti non li rammenta, ma conferma senza esitazione quanto dichiarato in precedenza, compresi i passaggi che legano Gilberto Cavallini e pure Valerio Fioravanti a piduisti per il tramite del neofascista Paolo Aleandri. Era il motivo della sua dissociazione, ha chiesto l'avvocato di parte civile Andrea Speranzoni, che ha rievocato una specie di scherzo telefonico fatto a Cavallini. Uno scherzo in cui si adombrava la possibilità che un piduista, dopo la scoperta delle liste del 17 marzo 1981, facesse il nome dell'imputato di oggi una volta sentito sui traffici degli uomini di Gelli. Cavallini, invece di mandare a quel paese i suoi sodali per la presunta assurdità dell'affermazione, si preoccupò. Una reazione inattesa che, ha aggiunto Sorti, si aggiungeva a cose non chiare che aveva cominciato a vedere a partire dal settembre 1981, quando tornò dal Libano, dove aveva trascorso l'anno precedente. Che ci fossero delle zone d'ombra, ha dichiarato ancora, l'ho iniziato a scoprire dopo. Poi è come quando uno non vuole rendersi conto che qualcosa fa male. Quella era la mia vita e non si potevano fare domande aperte, ma è stato un aspetto che lo ha portato a pentirsi, ha concluso. Nella prossima udienza, fissata per il 16 maggio, si proseguirà con Luigi Ciavardini, che, concluso l'esame dei pubblici ministeri, dovrà rispondere alle domande delle parti civili e dei difensori di Cavallini. Poi, tra il 23 e il 25 maggio, sarà la volta di Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, i leader dei NAR condannati in via definitiva per la strage del 1980.